Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Ivo Cola e Codap. La campagna si fa dolce. Di Alessandra Scaglioni. La storia che raccontiamo oggi è quella di un'impresa campana che ha la sua sede in provincia di Caserta e che opera in 60 paesi del mondo nel settore delle creme dolciarie, principalmente panna spray. Alla guida dell'azienda c'è Ivo Cola, figlio del fondatore. La storia dell'azienda nasce alla fine degli anni 60 da un'idea di Gaetano Cola, mio padre, che aveva visto una panna spray negli Stati Uniti e decise di sviluppare questo prodotto in Italia. Era un prodotto che non esisteva all'epoca in Europa, quindi fu una sfida abbastanza impegnativa perché bisognava combinare la tecnica della produzione della panna con il confezionamento nelle bombolette spray. Però ci mise tanto impegno, tanta passione soprattutto, e all'inizio, ad agosto del 1970, fu fatta la prima produzione di spray pan, che era la prima panna spray in Europa. Gaetano Cola veniva dal settore metalmeccanico, seconda generazione di una famiglia imprenditoriale, ma decide di mettersi alla prova in un settore diverso. L'inizio non è in grande. Fu realizzato un impianto che si concentrava su delle tecnologie al momento disponibili, quindi era una fabbrica, fra l'altro, in una zona quasi centrale della città di Napoli, perché era nella zona ovest ad Arco Felice, relativamente piccola, focalizzata soprattutto a produrre per il mercato nazionale. Nel mercato italiano il prodotto è nuovo e si afferma da subito. La chiave di successo fu anche legata a due aspetti. Quello del canale che fu scelto per l'introduzione del prodotto sul mercato. Eravamo all'inizio degli anni 70, appunto, un periodo di grandi cambiamenti. Si privilegiò un canale che stava nascendo in quell'epoca, era il canale della grande distribuzione, che poteva associare coerentemente al prodotto un nuovo tipo di consumatore, un consumatore giovane, moderno, dinamico, e quindi avere questa coerenza di posizionamento del prodotto. L'altra chiave, secondo me, importante che fu scelta in quell'epoca fu lo sviluppo di una confezione molto particolare, che anche questa aveva un'immagine molto accattivante, colori forti, una caratteristica che ricorda, perché non è cambiata in 40 anni, un birillo da bowling, e questo dette l'immagine di un prodotto veramente nuovo, innovativo, tant'è che per tanti anni la spray pan è stata vissuta dal consumatore come se fosse stato un prodotto importato. Ma il mercato interno non basta per garantire la crescita dell'azienda, che decide di rivolgersi al mercato internazionale. Uno dei momenti fondamentali che poi ha introdotto uno dei grandi temi strategici per lo sviluppo dell'azienda è stato quello di rendersi conto che il mercato nazionale, seppur importante, non era sufficiente a garantire lo sviluppo dell'azienda. La panna montata, tutti i prodotti di panna in generale, sono consumati più nei mercati nord europei che non in Italia. Allora, già alla fine degli anni 70 ci rendemmo conto che per far crescere l'azienda dovevamo orientarci verso i mercati esteri, per cui nel 1980 cominciammo ad esportare i prodotti. Anche questo però fu una nuova sfida, perché in quel tempo, dall'inizio della nostra produzione fino all'inizio degli anni 80, erano nati altri produttori, soprattutto su questi mercati nord europei. Per cui noi dovevamo trovare un nostro modo per proporci, una nostra offerta, una nostra modalità. Panna montata, tutti i prodotti di panna in generale, sono consumati più nei mercati nord europei che non in Italia. Allora, già alla fine degli anni 70 ci rendemmo conto che per far crescere l'azienda dovevamo orientarci verso i mercati esteri. Per cui nel 1980 cominciammo ad esportare i prodotti. E la Codap inizia la produzione per conto terzi, per le grandi marche italiane e per Europa Produzione, che oggi rappresenta una quota importante del fatturato. Poi arriva anche la diversificazione dei prodotti. Un altro aspetto importante che ha accompagnato lo sviluppo dell'azienda è che appena cominciato a approcciare i mercati esteri, decidemmo anche di diversificare la produzione. Quindi, cercando di continuare sulla filosofia di innovazione, abbiamo sviluppato una categoria di prodotti che sono le creme vegetali. un prodotto che può sostituire la panna, soprattutto nelle applicazioni professionali, perché ha delle prestazioni notevolmente migliorative rispetto a una panna tradizionale. Ed è stata l'altra grande categoria di prodotti sui quali noi abbiamo puntato e che hanno consentito lo sviluppo dell'azienda. Quindi noi oggi siamo in Italia leader di panna spray, siamo uno dei principali produttori in Europa, ma siamo leader in Europa di creme vegetali a lunga conservazione. All'estero la famiglia Cola va muovendosi in modi diversi, prima esportando per la clientela internazionale, poi creando sedi e stabilimenti. Il nostro primo approccio è stato naturalmente quello di esportazione, quindi produrre e vendere a clienti internazionali. Però presupponeva che cominciassimo a conoscere bene le realtà in cui operavamo. Quindi dovevamo avere informazioni di prima mano. Questo ci ha portato a creare nel 1995 le prime due sedi commerciali estere, in Germania e in Spagna, che rappresentavano i nostri due mercati principali. Spagna e Germania vengono considerati mercati vicini, ma con gli anni 90 anche altri mercati diventano importanti. A partire dagli anni 90 la grande crescita dei nostri prodotti è stata in Europa dell'Est prima e poi in America Latina. A questo punto abbiamo voluto scegliere di fare un ulteriore salto, di fare un ulteriore passo, di andare a produrre localmente. È stato scelto l'America Latina perché era quella che in prospettiva dava le maggiori opportunità di sviluppo. Ed è stata l'iniziativa che poi ci ha consentito di continuare su questa strada, quindi di prendere confidenza su come realizzare iniziative all'estero e continuare su questa strada nell'altra area di nostro grande interesse, che era l'Europa dell'Est, in questo caso attraverso un altro tipo di soluzione, quindi non una realizzazione di uno stabilimento ex novo, ma l'acquisizione della maggioranza di un'azienda locale che all'epoca si chiamava Maidei e che è leader nel settore del latte in Bulgaria. Oggi Codap ha 3 stabilimenti produttivi, a Marcianise, in Brasile e in Bulgaria. 3 sedi commerciali, in Germania, Spagna e in Croazia. Il fatturato del 2010 è stato di 120 milioni di euro. Il 35% proviene dal mercato italiano, il resto dalle esportazioni o dalle altre sedi produttive. I paesi dove la presenza dell'azienda è più forte sono quelli dell'America Latina e dell'Europa dell'Est. Le difficoltà da superare per conquistare i mercati partendo dalla Campania per Codap non sono state molto diverse da quelle che incontrano le aziende di altre zone d'Italia. Noi scontiamo un problema logistico e quindi l'aspetto infrastrutturale per noi forse ha una rilevanza leggermente maggiore di altre aziende, ma io credo che sempre il problema per tutti è un problema di accesso alle informazioni. E anche in questo caso si pone il tema dei supporti per andare all'estero. No, noi abbiamo fatto quasi tutto da soli, devo dire la verità. La criticità che abbiamo cercato sempre di ingestire era quella della raccolta delle informazioni. Noi ci siamo in questo abbastanza appoggiati all'ICE, perlomeno per la partecipazione alle fiere che noi per molto tempo abbiamo utilizzato come strumento principale per entrare in nuovi mercati. È però bene anche ricordare un altro aspetto. Quando noi abbiamo realizzato lo stabilimento in Brasile, ha partecipato in questa iniziativa anche Simest. E devo dire la verità, con un buon supporto, soprattutto nella fase di valutazione legale dell'investimento. Ma il rapporto con il territorio ha alcune caratteristiche particolari, che qui in provincia di Caserta riguardano soprattutto il valore dell'occupazione. Siamo un'azienda campana. Abbiamo operato fin da subito sui mercati internazionali, però abbiamo sempre voluto mantenere questo legame con il territorio. I nostri partner internazionali, quando hanno visitato l'azienda, hanno sempre riscontrato delle situazioni di grande eccellenza. E questo è il punto fondamentale, secondo me, perché noi siamo fortemente legati al territorio. Questa è un'azienda che si è sviluppata partendo da zero. molti nostri collaboratori hanno cominciato a lavorare in azienda e molti nostri collaboratori sono giovani che hanno trovato in azienda la loro prima occupazione, vista anche le caratteristiche del territorio. E questo si riflette in un grande attaccamento dei nostri collaboratori con l'azienda. A Marcianise resta il cuore dell'azienda e i progetti di innovazione. Noi diciamo abbiamo fatto tante scelte strategiche, abbiamo implementato tante iniziative per garantire lo sviluppo dell'azienda, però c'è stato sempre un elemento di fondo che è stato il vero fattore critico di successo. È stata la passione delle persone che hanno messo nel proprio lavoro. E questo lascio dire, avendo visto diverse realtà internazionali, questo approccio non è facile da trovare in altre realtà. Tant'è che oggi, pur continuando a crescere e pur avendo progetti di sviluppo per il futuro che prediligono la crescita internazionale, noi abbiamo un progetto che si chiama Competence Center, che vede lo stabilimento di Marcianise come fulcro dell'innovazione futura. Nel 2007 Codap acquisisce un nuovo marchio, Saba, azienda fondata nel 1945 e marchio di riferimento nel sud Italia per il latte di mandorla e gli sciroppi. E le prospettive sono di crescita, soprattutto all'estero. I programmi di sviluppo dell'azienda si concentrano su un'ulteriore crescita internazionale. Abbiamo due temi all'ordine del giorno, che è il consolidamento e lo sviluppo del mercato dell'America Latina, dove noi siamo diventati leader e che ha grandi possibilità ulteriori di sviluppo. L'altra area dove realizzeremo delle nuove iniziative è il mercato russo, mercato dove noi abbiamo operato per tantissimi anni come esportazione dei nostri prodotti e adesso invece stiamo tornando, ma anche qui con un modello leggermente diverso. Andremo a fare una partnership con un operatore locale finalizzata a prima la distribuzione, di nuovo la distribuzione dei prodotti sul mercato russo e poi una realizzazione di uno stabilimento produttivo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.